Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. In queste sere natalizie, dove siete? Tendenzialmente in automobile, state andando dalla nonna. Ciao Chiara, tu? Io sono qui. Tu sei già qui? Sì. Oppure ci siete già arrivati o state tornando dal nonno? Dopo io andrò dalla nonna, lo dico dopo subito. Sì. Puntata natalizia. Puntata natalizia, c'è Mebius sotto l'albero. Anche Mebius è sotto l'albero insieme agli altri regali. I titoli e poi partiamo. Esiste, non esiste. Questo non è un problema, perché la vera questione è come relazionarsi ai bambini quando si parla di Babbo Natale. Ma ora interviene anche la psicologia. Quando starnuta si spostano le auto. È la favola per piccoli adulti di un ragazzino super nasuto. Ma esiste una patologia dello starnutire? Il calcio, si dice, è uno sport molto fisico e un saggio si interessa allora della scienza del pallone. I cuccioli di scimpanzé sviluppano il comportamento del gioco in maniera del tutto simile ai cuccioli d'uomo. Abbiamo scelto, Federico, un tema un po' particolare per iniziare la puntata sotto Natale, però insomma, allora, diamo prima la raccomandazione. Sì. Bambini, allontanatevi dalla radio, uscite un attimo dalla stanza, uscite dalla macchina, fate quello che volete, andate un attimo a dormire, un pisolino, perché dobbiamo parlare di Babbo Natale. Oh, e abbiamo in linea con noi Marco Cattaneo, direttore delle scienze. E direttore di Mente e Cervello, che appunto è uscito con questo numero natalizio con una copertina bellissima. Allora, la fine di Babbo Natale. Sulla copertina è ritratto un Babbo Natale schiacciato da un albero di Natale. Oh. Buonasera Marco. Buonasera. Oh, però Marco, adesso diciamocelo, non abbiamo una prova della non esistenza di Babbo Natale. Non c'è una prova scientifica. Una prova dell'esistenza, della non esistenza di Babbo Natale. È che molti sospetti fanno pensare che sia qualcuno di famiglia, spesso e volentieri. Certo, ci sono degli indizi, come dire, convergenti, però di per sé... Sì, lasciamo ancora un po' le cose confuse. Dobbiamo dire, Marco, che all'interno della vostra rivista, appunto come abbiamo detto, Mente e Cervello, c'è un bell'articolo, adesso tu ci racconterai di che si tratta, che appunto si intitola L'addio a Babbo Natale. Ovviamente all'interno sono, diciamo, un po' analizzati gli aspetti psicologici del rapporto del bambino con Babbo Natale e poi ovviamente con i familiari, no? Naturalmente la scomparsa di Babbo Natale è uno dei momenti veramente importanti nella crescita di un bambino, probabilmente il primo momento della crescita, insomma, in quella che è la nostra civiltà, la nostra società moderna, e per quello è un momento molto particolare psicologicamente da seguire. In realtà per qualcuno è una scomparsa, come dire, una dipartita abbastanza indolore, mentre in altri lascia il segno per lungo tempo, quindi è proprio nei genitori che deve nascere in qualche modo l'attenzione per come un bambino vive questa mancanza, tutto sommato. Ecco, la figura di Babbo Natale è stata per tutti quanti noi, che ormai non ci crediamo più o comunque non lo vediamo più arrivare da un pezzo, comunque un momento, una figura importantissima, una figura che nel momento in cui manca fa tutto sommato slittare in qualche modo il rapporto che c'è tra il bambino e i genitori per quanto riguarda il fatto di credere all'esistenza di una figura così, insomma, un po' mitologica, diciamo. Per cui la scomparsa di Babbo Natale è un momento importante, e come comportarsi non è sempre del tutto banale. Ecco, infatti adesso ci arriviamo. Nell'articolo vengono snocciolati, diciamo, un po' tutti gli indizi che portano poi a capire che Babbo Natale è papà e mamma. I bambini cominciano chiaramente con lo sviluppo a farsi delle domande, come fa Babbo Natale ad esempio ad andare nella stessa notte, e così un po' un vecchietto un po' attempato e cicciottello, a fare tutto il giro del mondo con le renne volanti. Insomma, poi quando hai 7 anni cominci a capire che la renna volante forse non esiste. Sì, non basterebbe per tutti i bambini. Sì, poi tendenzialmente c'è la vita di comunità, certo. È un fattore molto importante, ovvero sia il fatto di avere magari dei fratelli più grandi che comunque ti aprono gli occhi prima, oppure il fatto di avere dei compagni di classe che cominciano ad avere qualche indizio in più, insomma in qualche modo si viene a sospettare dell'esistenza di questo personaggio che appunto riceve letterine da tutte le parti del mondo e in una sola notte fa il giro del mondo a bordo di questo bizzarro, come dire, mezzo di trasporto trascinato dalle renne. È chiaro che cominciare a non crederci più, cominciare ad avere dei sospetti e avere la certezza in realtà che sono mamma e papà, sono zii e parenti di varia natura a preparare i regali, a metterli sotto l'albero, c'è ancora un passo rispetto ai primi sospetti. C'è un passo, il passo del separarsi completamente dall'immagine di Babbo Natale, è un passo più definitivo, diciamo così. È una cosa un pochino progressiva, ecco, anche dall'articolo si evince che non è che avviene tutto di botto, insomma non è un trauma, un mattone in testa, ma piano piano, insomma prima te lo dice il compagnuccio, poi magari trovi qualche regalino dentro l'armadio nascosto, poi insomma cominci a farti un po' di domande. Qui si dice che nel 50% dei casi sono i compagni di scuola che danno il colpo finale. Nella ricerca è venuto fuori questo, perché la ricerca, tra l'altro, di cui stiamo parlando si è svolta proprio con delle interviste ai ragazzi e bambini. Certo, la ricerca si è svolta con delle interviste, peraltro abbiamo fatto anche un interessante dibattito in redazione, perché abbiamo cercato di capire quale fosse, di ricordare tutti quanti quale fosse stato l'impatto su noi stessi, e se nel mio caso era stato abbastanza tranquillo, qualcun altro ha rivelato che ha disperatamente cercato di credere a Babbo Natale fino oltre la rivelazione fatta da mamma. Mamma ha detto ma tanto ormai lo sai, e invece il collega ha detto no, ma come lo sai, ci è rimasto malissimo. C'è qualcuno che, ecco, qualcuno di noi probabilmente cerca disperatamente di continuare a credere in questa figura, disperatamente ovviamente per modo di dire, le reali disperazioni della vita fortunatamente sono altre, però tenta di opporsi a questa realtà nel continuare a costruire questa figura simbolica, tutto sommato magari mancanza d'altro, però ci sono veramente delle reazioni molto molto diverse. Sicuramente nella maggior parte dei casi il passaggio è un passaggio graduale, come tutti i passaggi di crescita, poi tutto sommato non ci sono mai salti così, così violenti. Passaggio graduale al quale i genitori è giusto che prestino attenzione in qualche modo. Marco, mi pare che uno degli ingredienti, diciamo, del trauma sia determinato dal fatto che con questa rivelazione crolla, come dire, il rapporto col magico, no? Con la magia, che è effettivamente una cosa importante quando sei piccolo. Com'è che nell'articolo si dice qualcosa su come i genitori possono fare, in qualche modo, evitare questo lutto tragico? Ma evitarlo è difficile. Nell'articolo si dice che i genitori hanno, come normalmente avviene poi in realtà in tutte quante le fasi di crescita, hanno chiaramente la responsabilità di magari essere loro stessi, se si accorgono che il bambino cresce e continua a vivere con allegramente questa figura completamente fittizia, completamente inventata, e cominciare a togliere loro un pochino di magia dalla figura, cominciare magari a lasciare qualche indizio, cominciare a sollevare qualche sospetto. Chiaramente più si va con i piedi di piombo e più la cosa può avvenire, come dire, in maniera indolore. Indorare la pillola senza dubbio. Cominciare a chiedere, magari fare qualche domanda ai bambini, chiedergli ma tu che ne pensi, ma ti pare possibile, insomma cercare di avviarli verso questa triste verità in maniera più indolore possibile. Comunque io vi ho seguito professionalmente, ma insomma con questa intervista sono stato raggiunto da una notizia grave. Che non esisteva. In realtà non lo sapevo, Federico. Possiamo continuare a cercare di crederci anche da grandi, insomma, diciamo che da grandi forse possiamo trovarci delle ragioni razionali per provare a credere in qualcosa di diverso e di irrazionale come Babbo Natale. Va bene, grazie Marco, buone feste. Grazie Marco. Grazie a voi e buone feste a tutti. Il naso aveva cominciato a pizzicare e a dilatarsi senza controllo ed era esploso nuovamente in uno starnuto di proporzioni ciclopiche. Il turbine creato dall'aria compressa che usciva dalle narici alla velocità del suono aveva sollevato Enrico da terra di quasi un metro, proprio come un astronauta in volo libero nello spazio. L'onda d'urto si era propagata, i vetri del quartiere avevano tremato per qualche secondo e gli allarmi delle auto parcheggiate avevano cominciato a suonare tutti insieme in un concerto assordante e interminabile. Beep, beep, wow, wow, ecco Chiara. Ma cos'è, la fine del mondo natalizia? Questo starnuto qui, l'autore di questo starnuto è qui con noi. Ma questo era uno starnuto? Esatto. Stefano Aurighi, buonasera. Buonasera. autore dello starnuto, ma non nel senso stretto, immagino non che di lei non... questo. Sì, lei starnuta normalmente come tutti, immagino. Perché se io facessi degli starnuti come Enrico Waller, che è questo personaggio che ha fatto lo starnuto che hai appena letto, sarebbe una vita impossibile la mia. Stefano Aurighi, autore dello starnuto, KV Edizioni. Che è un libro racconto, insomma. È una favola che, come tutte le belle favole, va bene per i giovanissimi, ma anche per gli adulti. Giovanissimi, insomma, che età va bene, Aurighi? Perché il nostro Enrico, il grande starnutatore, che cosa frequenta? Dunque, lui frequenta la prima media, però ovviamente questo era un pretesto narrativo. Perché quella è un'età che secondo me dal punto di vista della proprio della scrittura si presta a delle cose molto divertenti, però è un romanzo destinato ad un pubblico, diciamo, a partire dalle scuole medie in su, perché sì, è una scrittura non facilissima, no. I bambini delle elementari non credo che lo potrebbero affrontare. È un po' più complicato. Io direi di non dire minimamente come si evolve la cosa, che ha delle evoluzioni complesse. Certo. Diciamo solo che il protagonista muore alla fine del libro, no. No, non è vittima del suo grande starnuto. No, non è vittima in quel senso, però certo è uno starnuto che gli complica molto la vita. Complica molto la vita perché lui una mattina, mentre fa colazione in cucina con i suoi fratelli, fa uno starnuto di dimensioni veramente pazzesche, cioè praticamente sbriciola la cucina, e scardina le porte, la gente pensa che sia arrivato il terremoto. In realtà è solo l'inizio di una vicenda che durerà tutta un'estate e vedrà questo bimbo, vittima in un certo senso di questi starnuti, che si presentano in un'occasione molto particolare, quando lui, in maniera del tutto inconsapevole, fiuta un imbroglio, un'ingiustizia, un qualcosa, una fregatura nell'aria, insomma chiamiamola come preferite. E lui sviluppa questa allergia, questa intolleranza a tutti i tentativi, a tutti i soprusi, insomma a tutto quel modo di fare piuttosto in voga, diciamo anche in questa Italia, di prevalere in maniera scorretta sull'altro. Ecco, e lui proprio non ce la fa, starnutisce e demolisce qualunque cosa. Comunque, lo starnuto ha questo potere un po' fantastico, un po' magico. Non so se lei, Aurighi, o gli ascoltatori si ricorderanno, c'era anche un mago che si chiamava Ecci, appunto, o Ecciu, il mago Pancione, che faceva tutte le magie con lo starnuto. Eh sì. Io non lo ricordo, però devo dire che quando poi ho finito il romanzo mi sono accorto che il meccanismo di dare a dei personaggi un potere di tipo fisico, che fosse uno starnuto, uno sbadiglio o qualche cosa del genere, che praticamente annientasse i nemici, questa è una cosa che è abbastanza consueta, ho visto dopo. Ovviamente, insomma, è tutta una chiave anche molto ironica e leggera per cercare anche di prenderci tutti un po' in giro su un tema che invece è estremamente serio, che è quello della correttezza dei rapporti tra le persone, soprattutto una sorta di convivenza civile senza che ci sia per forza qualcuno che prevalga sull'altro a torto, cioè facendo delle ingiustizie. E io ho cercato, credo di esserci riuscito, questo almeno è il giudizio che leggo nelle recensioni in queste settimane, ho cercato di fare una cosa che fosse assolutamente non moralistica, perché ci mancherebbe solo quello, ma che fosse soprattutto una cosa molto divertente, e spero di esserci riuscito, ecco. Stefano Aurighi, la lasciamo perché noi andiamo da uno starnutologo adesso, che però è un otorino laringoiata, che fa anche il chirurgo, quindi guarda proprio anche dentro. Che appunto ci spiega che lo starnuto in effetti è serio. Certo, immagino che non ci dica che ci sono personaggi come Enrico. Grazie Aurighi, lo starnuto, narrativa KV, le edizioni. E l'esperto che abbiamo chiamato in causa, Chiara, è Carlo Berardi. Buonasera Berardi. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Responsabile della unità operativa di otorinolaringoiatria dell'Istituto Clinico Città Studi di Milano. L'esperto. Che ci racconta, prima forse per iniziare, che cos'è uno starnuto, professore? Starnuto è una reazione motoria ad un insulto causato da un'irritazione della cavità nasale. Questo provoca attraverso lo starnuto un meccanismo di liberazione della cavità nasale, perché vengono emesse delle particelle con una pressione importante, a una velocità di circa 160 km all'ora, e quindi libera il naso da ciò che è entrato e ha creato un'irritazione della mucosa nasale. Ma tipicamente si starnuta, per esempio, se si arriva un po' di aria all'improvviso, anche quello è quello che le chiamo un insulto? Sì, anche l'aria è un insulto, oppure anche un atto, può essere un'allergia, degli allergeni possono essere degli insulti. Una molecola di peperoncino? Una molecola di peperoncino, di pepe anche, di tutto quello che può irritare il naso, perché ci sono delle particelle anche in queste determinate sostanze, tipo il pepe e il peperoncino, che irritano la mucosa nasale. La mucosa nasale è molto sensibile, ha lo scopo di proteggere le vie aeree più basse dagli insulti, dagli agenti che possono causare delle alterazioni, e quindi blocca queste particelle o cerca di bloccare queste particelle, e quando è aggredita in modo particolare allora reagisce con lo starnuto. Quindi si espelle dalla bocca. Se ne libera attraverso la bocca. Sì, ecco, sì. Adesso, lontano da noi, per carità, chiederle se esiste della gente che con uno starnuto sposta le automobili. Come nel racconto. Beh, se c'è qualcuno ce lo dica, ma comunque quello che volevamo chiederle è se invece può esserci una particolare patologia di gente che ha uno starnuto, come dire, gravemente potente. No, non esiste una patologia di una potenza dello starnuto. Esiste un danno, un fastidio quando lo starnuto quando la mucosa nasale è particolarmente sensibile a varie sostanze, quindi ci sono degli starnuti ripetitivi. Quindi tipicamente un'allergia, ecco, nei casi più... l'allergia, nei casi più eclatanti, di solito proprio è l'allergia. Allora lo starnuto diventa talmente costante, ripetitivo, che diventa un problema. E per questo poi si danno delle medicine per cercare di ridurre la risposta a questi insulti causati per esempio dagli allergeni. Quindi nessun super starnutatore. Non sono a conoscenza di nessuno che finora riesca a spostare le macchine con uno starnuto. E a differenza degli sbadigli, ad esempio, non mi risulta che siano contagiosi, come dire. Io, se sbadiglio, di solito uno che sta accanto a me sbadiglia di conseguenza. Starnuto. Invece per lo starnuto non mi sembra che non funzioni così. No, lo starnuto non funziona così proprio perché lo starnuto è una risposta a uno stimolo, quindi il naso deve essere insultato, cioè deve essere aggredito da delle particelle che lo irritano, e a quel punto uno si libera e starnutisce. Okay. Diciamo che lo starnuto forse potrebbe essere paragonato un po' anche alla tosse, cioè sono due atti motori che cercano di difendere le nostre vie aeree. E lo starnuto, le vie aeree alte, quindi del naso, la tosse è quella delle vie aeree basse, quindi del polmone. Abbiamo detto tutto quello che volevamo sapere. Ma mi pare di sì. Credo proprio di sì. Carlo Berardi, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Gianbruno Guerreri è qua di fianco a me questa sera. Ciao Gianbruno. Ciao. Giornalista di scienza, delle scienze. Però io ti conosco come autore di saggi su Kurt Gödel, quindi su uno dei personaggi più enigmatici della matematica. Hai scritto La scienza nel pallone insieme a Nicola Ludwig. Potrebbe rimandare a un saggio di epistemologia su problemi critici della scienza odierna. Invece il pallone è proprio quello da calcio, a scacchi. Esattamente, è proprio il pallone da calcio. È uscito nelle Chiavi di lettura Zanichelli ed è un brevissimo, intenso, però sono 154 pagine piene di dati, di numeri, di esempi di fisica del pallone. Sì, esattamente. Abbiamo avuto l'idea di guardare al pallone non da una prospettiva di allenamento, di atletica, ma da una prospettiva abbastanza insolita, la prospettiva proprio della fisica. Della fisica. E qualcosa che non esisteva, no, praticamente. Infatti, sì, io so di una vecchissima tesi, ma era soltanto su, se non sbaglio, su uno dei momenti che era la punizione, solo il calcio, qui, che viene dato al pallone in certi momenti, qui invece c'è assolutamente di tutto. Io comincio a chiedere a te che cosa pensi che sia in questo lavoro che avete fatto, che probabilmente avete anche ricavato molta più roba di quella che siete riusciti a mettere dentro. Cos'è la cosa che vi ha sorpreso di più come dato dalla vostra indagine? Beh, ci sono alcuni miti che se poi si va a vedere nello specifico dal punto di vista della fisica si scopre che sono proprio appunto dei miti, nonostante siano consolidatissimi. Per esempio? Per esempio il fatto che il portiere debba lanciarsi quando deve parare un rigore prima della... E di fatto succede solitamente così. Cioè che la scelta strategica sia quella di mi butto a sinistra oppure a destra sia più conveniente, tu dici. Questo è questo è un mito, perché è vero che i tempi di volo del pallone e i tempi di reazione del portiere lasciano un margine molto stretto al portiere, e comunque il 28% dell'area della porta non è raggiungibile nei tempi del rigore. Però c'è un però. Questi punti irraggiungibili si distribuiscono tutti molto vicini al bordo della porta. Per cui nel momento in cui il calciatore tira ha una certa difficoltà a beccarli, perché alla base della porta sono 30 centimetri. Quindi o riesce a metterli la palla, o se no tu dici esattamente il portiere ha più possibilità se fa che cosa? Se cerca se di intuire. Aspetta, no, ha più probabilità se aspetta che il rigorista tocchi la palla. E quindi riesce a vedere un po' la direzione. Esattamente. Certo, se il rigorista fosse così bravo da beccare gli angolini giusti, non sarebbe impossibile. Però c'è un problema, che il rigorista deve scegliere fra precisione e velocità. Già. C'è poco da fare. C'è precisione e velocità vanno in direzioni opposte. Tant'è vero che il 57% dei rigori viene tirato nella fascia bassa e non nell'angolino in alto a destra o a sinistra, che è quello più grande, che sarebbe quello perfetto. Perché? È buffo, perché poi dalla fisica si passa anche alla psicologia. Certo. Perché la ragione tutte e due hanno le loro ragioni, sia il portiere che il rigorista. Il portiere non vuole la figura di questo, quello che resta lì come una pera cotta. È bucato. E la pressione psicologica lo costringe a lanciarsi prima. Il tiratore, se sbaglia il rigore e non prende la porta, cosa che è possibile se cerca gli angolini, è abbastanza facile. Sì. E dopo fa la figura. Si pensa che il rigore sia che non è gol capace fatto. Neanche. Esatto. E statisticamente si è visto che il portiere che aspetta all'ultimo momento prima di lanciarsi, in realtà ne intercetta di più dell'altro, però non lo fa. Non lo fa perché esiste questa pressione psicologica. Senti, avete fatto dei calcoli sulla potenza di questi tiri, anche sulle velocità? Ci sono punizioni che arrivano a 180 chilometri orari, quindi non siamo lontani dalle velocità che si hanno per esempio nel tennis, dove però c'è un attrezzo con delle corde che sì. Però certo qui abbiamo delle gambe che sono più potenti di un braccio. Esattamente, in realtà la potenza di tiro è data sì dalla potenza, diciamo dalla struttura muscolare della persona, ma è data moltissimo dall'effetto fionda. La gamba nel calcio funziona come un pendolo doppio, un pendolo che ha nell'anca un perno e l'altro perno nel ginocchio. Già. E la gran parte della potenza è data da questo secondo pendolo, che deve riuscire a dare il colpo in scioltezza. In questo modo riesce a dare molta maggiore velocità. Quindi non è nella coscia, anche questa è una cosa che tutti pensano. No? Anche la coscia anche conta, però è molto però, di più. Però conta molto di più il secondo pendolo. Il secondo pendolo nel dare potenza e velocità. Tant'è vero che notoriamente le donne riescono a dare calci di minore potenza. Però la velocità del ginocchio nel momento di punta è superiore nella donna che nell'uomo. Perché c'è un ginocchio più duttile? Questo è ancora oggetto di studi, perché è buffo che poi comunque finisce per dare un colpo meno potente. In realtà stanno ancora studiando su questo meccanismo. Ci sono due ipotesi. Uno è che comunque lo stinco dell'uomo è più lungo, e anche quando è in scioltezza, come dicevo prima, riesce comunque a dare un sovrappiù di potenza decisivo. L'altro fa riferimento a un'ipotesi più evolutiva, cioè la donna è tendenzialmente più attenta a difendere la propria integrità fisica. Per cui comunque quando si raggiungono un certo tipo di sforzo, scattano dei meccanismi di difesa, di irrigidimento, che rendono il colpo meno potente, la potenza, anche a parità, diciamo, di struttura fisica. Un'ultima cosa che ti chiedo come dato è che cosa, voi avete studiato che cos'è l'impatto con una pallonata, no? Voi dite, quando per esempio si sta in barriera e uno sta per tirare la punizione davanti, insomma, si può ricevere una bella botta. Avete fatto un calcolo per cui se un bel tiro lo prendi addosso è come farsi arrivare addosso un peso, mi pare, di 20 kg dall'altezza di un metro? Le accelerazioni che si subiscono quando si è colpiti da un pallone, caso di una barriera, ma anche nel caso di un colpo di testa, sono delle accelerazioni paragonabili, anzi superiori, a quelli dei jet, dei piloti di jet militari. E questo può sembrare strano, ma invece c'è una risposta. Ecco, no? Il problema è che mentre un pilota di jet è sottoposto a questo tipo di pressione per dei tempi lunghi, la pressione esercitata nel caso del colpo di testa, della barriera, è molto molto breve. Quindi l'impulso, diciamo quello che poi potrebbe fare male, è comunque ridotto. Certo, e poi c'è anche questa differenza tra la superficie, no? Voi a un certo momento parlate del proiettile, no? Il proiettile sparato da una pistola ha una sua energia notevole, raffrontabile, poi, però colpisce in un punto piccolo. Si concentra tutto in un punto piccolissimo, invece comunque il pallone, che oltretutto è ben deformabile, la distribuisce su un'area molto maggiore. La più grande punizione è stata quella di Coleman, se non sbaglio, Ronald. La più veloce, sì. La più veloce. Almeno quella che è accreditata come la più veloce. Perché qui bisogna dire una cosa, si parla molto delle velocità anche in televisione, però vanno prese in maniera molto, molto spannometrica. Sì, direi, sono perché, ordini di grandezza. Perché in realtà intanto valutano la velocità media, ma comunque la valutano con dei software che utilizzano le immagini delle telecamere, con uno schiacciamento prospettico che è molto più complesso di quello che può sembrare a prima vista. Valutazione delle velocità, sia medie sia soprattutto quelle di impatto, richiederebbero invece delle tecnologie molto più sofisticate, stile militare, diciamo. Che sarebbe un po' difficile pensare applicata al calcio, però insomma questa punizione del 92 del Barcellona, no? Contro la Sampdoria, 188 km orari, tu dici non sarà stata questa, però insomma forse ci siamo andati. Allora Gian Bruno, hai scritto questo libro insieme a Nicola Ludwig, lo ricordo, La scienza nel pallone, edito da Zanichelli ed è appena arrivato nelle librerie. Grazie. Grazie a tutti. Per l'Expo 2015, sono previsti ovviamente dei temi centrali, sono quelli che riguardano alimentazione, sostenibilità, energia, però sono anche previste diverse attività culturali al contorno. E di una di queste parliamo questa sera con Roberto Marchesini. Buonasera Marchesini. Buonasera a voi. etologo, studioso delle relazioni fra uomo e animale, e l'iniziativa, beh, insomma, ha un titolo decisamente buffo, un po' strano, magari un po' metaforico, non lo so, lasciamo perdere questo aspetto, per un Expo da cani, perché siete partiti con una iniziativa che volete proporre alle attività appunto culturali di Expo, dedicata al rapporto fra uomini e animali, solo cani o anche gatti? Ma diciamo che il cane è il grande interprete, protagonista, quello che insomma bene o male ci apre alla dimensione di relazione con tutti gli altri animali, quindi okay. Un po' è un archetipo, un archetipo. Modello. Ecco, il centro di questo vostro discorso qual è? Ma che oggettivamente in Italia c'è stata una forte modificazione anche a carico della zoantropologia, questa disciplina nata in Italia che sta portando anche all'estero un modo completamente nuovo di parlare con gli animali, e quindi questo ha dato una grossa opportunità all'essere umano di trasformare tante tipologie di attività come la pet therapy, come la relazione col proprio cane. Diciamo che rappresenta una grande eccellenza del nostro paese e per questo la presentiamo all'Expo. Ecco, ma perché qui in questo rapporto che abbiamo con gli animali e come li utilizziamo, lei prima citava poco fa la pet therapy, c'è qualcosa che non funziona, voi dite? Ma certamente, c'è quella tendenza a vedere nell'animale o un sostituto dell'essere umano oppure un oggetto e questo è profondamente sbagliato, cioè gli animali sono soggetti e quindi vanno coinvolti e non usati, non regalati per Natale come giocattoli sostanzialmente. E nello stesso tempo il grande errore è quello dell'antropomorfizzazione, perché non tiene conto che insomma l'aspetto più importante riguarda la diversità, il fatto che un animale, che un gatto sia un gatto, un cane sia un cane, sembrano cose scontate, ma in realtà molto spesso non è così. Non è così. Per esempio, proprio nella pet therapy si pensa che basta mettere un cane vicino magari a un bambino autistico e la cosa è fatta. Sì, molto spesso addirittura si va a consigliare a una famiglia che magari ha già un problema di adottare un cane, un gatto, creando delle situazioni di forte difficoltà alla famiglia che poi si ripercuotono cioè su tutta la filiera familiare, animale compreso. E in realtà la pet therapy è data da attività specifiche, quindi le attività che faccio con un bambino iperattivo sono diverse da quelle che faccio con un bambino autistico, con un ragazzo tossicodipendente rispetto a un paziente schizofrenico. Chiaro quindi che vanno fatte delle attività che sono legate poi a ciò che faccio esprimere alla persona, quindi giocare col cane è diverso che fare attività di collaborazione o di cura, quindi bisogna fare molta attenzione perché sono attività che vanno fatte attraverso dei professionisti preparati. Ecco, in conclusione Marchesini, ricordando che questa è un'iniziativa della provincia di Milano e della SIWA, la Scuola di Interazione Uomo-Animale, che cosa vi proponete? Per Expo voi pensate di avere un periodo abbastanza lungo in cui farete che cosa? Tutta una serie di iniziative per sensibilizzare a questo tipo di problemi? Certo, innanzitutto dei progetti nell'ambito delle scuole, perché questo è l'aspetto più importante, cioè cercare di lanciare questa nuova cultura nelle scuole per insegnare ai bambini un corretto rapporto con gli animali e soprattutto per far comprendere anche alle scuole l'importanza educativa della relazione uomo-animale, cioè come attraverso la relazione uomo-animale si possono andare a contemperare dei problemi quali possono essere il bullismo, si possa migliorare la capacità di integrazione multiculturale, insomma si possono fare dei progetti che vanno proprio a beneficio di tutta la comunità. Grazie Marchesini, buon lavoro. Grazie a voi. 150esimo dell'Unità d'Italia e statistiche sulla popolazione e su altre cose. Di questo vi parla adesso Barbara Gallamotti. In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia esce un volume che fa la nostra fotografia. Si chiama Italia 150 anni ed è stato curato da Sveva Veduto, direttore dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. Buonasera Sveva Veduto. Buonasera. Allora, intanto, in 150 anni com'è cambiata la nostra fotografia? Ma in 150 anni ovviamente è cambiata molto, basti pensare che nel 1861 eravamo 22 milioni e in un secolo e mezzo questo numero si è quasi triplicato, oggi arriviamo ai 60 milioni. Pensate che l'aspettativa di vita allora non andava molto oltre 35 anni, che gli analfabeti erano il 75% della popolazione e che l'italiano era parlato da un'esigua elite, non più del 2% si sapeva esprimere in italiano, gli altri parlavano soltanto il dialetto. È cambiata anche dal punto di vista lavorativo, allora eravamo un paese agricolo, il 70% delle persone attive lavorava nell'agricoltura, nell'industria non più del 18%, il 12% nei servizi, quindi un paese fortemente cambiato da allora. Ecco, fra le cose che sono cambiate, per fortuna in meglio, c'è l'allungamento dell'età della vita, che però ha reso più lunghi gli anni della pensione, e l'aumento degli anni di scolarizzazione, che ha ritardato il momento dell'ingresso nel lavoro. Quindi, a conti fatti, come è cambiato il rapporto fra chi lavora e la popolazione generale? Sì, certamente questi sono fenomeni positivi, l'allungamento della vita è dovuto anche a una situazione sanitaria ben diversa, una cura della salute che oggi è ben diversa da quella che era agli inizi di questo secolo. Certamente il rapporto è diverso, oggi 23 milioni di lavoratori devono lavorare per sé e per tutti gli altri per arrivare a mantenere i 60 milioni di persone che siamo in Italia. Quindi meno della metà della popolazione generale mantiene se stessa e tutta la popolazione. Sì, esattamente, sì. Fra le cose che sono cambiate è ovviamente la posizione della donna, però insomma io leggo sul vostro libro che la prima donna italiana consegue la patente nel 1907, nel 1944 Gisella Floreanini è la prima ministra, nel 79 Nilde Iotti la prima presidente della Camera e poi dopo di lei ci sarà solo Irene Pivetti, nel 2008 la Marcegaglia è la prima donna presidente di Confindustria, nel 2010 la Camusso è stata la prima segretaria della CGIL. Ecco, mancano ancora un sacco di prime donne, dalla prima donna presidente della Repubblica a moltissime altre, prima donna presidente del CNR, tanto per citare un esempio a lei vicino. A che punto siamo? Sì, esatto, questo è vero, il percorso è stato molto lento ed è ancora in salita e pieno di curve. Siamo, diciamo, a un punto sicuramente migliore, però certamente percentualmente la presenza delle donne, soprattutto nelle posizioni di vertice, è ancora molto molto minore rispetto a quanto sarebbe auspicabile per un paese occidentale avanzato quale siamo. Un altro degli indicatori che voi avete preso in considerazione giustamente è lo stato della ricerca, perché esso rappresenta uno dei principali motori del progresso di un paese. Anche qui, qual è l'aspetto più rilevante da sottolineare a suo avviso? Sì, certamente la ricerca è una componente direi essenziale in un paese quale il nostro, in un paese occidentale, ma sicuramente le componenti di tipo quantitativo sono quelle che contano, cioè i finanziamenti e la spesa per ricerca. Se lei pensa che noi siamo arrivati al picco di spese di ricerca in percentuale sul prodotto interno lordo alla fine degli anni 80, primi 90, in cui eravamo all'1,2-1,3%, e da allora è stato soltanto un calare, quando sarebbe dovuto essere un aumento costante, e parallelamente gli occupati nel settore ricerca sono in una posizione di stato stazionario da diversi decenni. Bene, ricordo questo libro veramente ricchissimo di dati estremamente preziosi, Italia 150 anni, Gangemi Editore, grazie Sveva Avveduto, buonasera. Grazie a voi, buonasera. La mattina di Natale, sotto l'albero tutto illuminato, ci sì, sono ormai i giochi, ci sono i bambini e gli scimpanzé che giocano insieme. I cuccioli di uomo e i cuccioli, esatto, di scimpanzé, e ognuno giocano apre i suoi insieme. Regali. Esatto, esatto. Forse un giorno questo sarà possibile. Potrebbe essere possibile. In realtà il gioco di cui parliamo adesso è un pochino differente da quello reale, proprio il gioco materiale, ma un po' più il gioco sociale, se vogliamo chiamarlo così, che sembrerebbe abbia delle caratteristiche comuni sia nei cuccioli di uomo che nei cuccioli di scimpanzé. Beh, insomma, dai, ci siamo. Ecco, torna a trovarci, giusto per Natale, una nostra antica conoscenza, la dottoressa Elisabetta Palagi. Intanto, buonasera Elisabetta. Salve, buonasera. Salve a tutti. Ecco, per chi non si ricordasse, la ripresentiamo, è responsabile di un laboratorio presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa ed è anche in collaborazione una ricercatrice dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR di Roma. Spesso Elisabetta ci parla di primati più o meno vicini a noi, questa volta tocca agli scimpanzé e al ruolo del gioco degli scimpanzé. Esattamente. Esattamente, dunque, diciamo che il gioco ha diverse funzioni, sia considerando gli immaturi, cioè i piccoli e i cuccioli, sia prendendo in considerazione gli adulti. In funzione delle età che si prendono in considerazione, in funzione dei contesti in cui avviene, può avere funzioni diverse. In generale però possiamo assolutamente dire che il gioco nella fase infantile, nella fase giovanile, ha una meravigliosa funzione di allenamento, allenamento per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo dei piccoli. Ecco, la vostra ricerca che è appena stata pubblicata su Plus One, appunto, si occupa di un aspetto particolare del gioco, che è appunto il gioco sociale. Esattamente, abbiamo preso come controllo anche il gioco solitario, però quello di tipo acrobatico, il gioco di movimento, quello che fanno comunque anche i nostri bambini quando ruotano su se stessi a tutta velocità oppure quando si mettono a fare delle capriole. Ecco, gli scimpanzé fanno la stessa cosa. Spesso il gioco solitario serve da apripista per quello sociale. Quindi avviene un po' prima a livello di età, forse. Esatto. Ad esempio, nel gioco solitario c'è un picco durante la fase infantile, che poi tende comunque a diminuire durante la fase giovanile, e la stessa cosa la troviamo sia negli scimpanzé che nei bambini. Questo dimostra che chiaramente può, anche se chiaramente ancora deve essere dimostrato, ma diciamo ci sono forti indicazioni che potrebbe avere la stessa funzione nelle due specie. Quindi all'inizio può servire ad esempio per conoscere l'ambiente in cui una persona, un bambino o un animale vive, perché comunque c'è bisogno di relazionarsi con lo spazio che ci circonda, di mettere anche alla prova le nostre abilità. Il gioco sociale è un po' diverso, nel senso che il gioco sociale si mantiene ad alti livelli sia nella fase infantile che nella fase giovanile nelle due specie, sia negli scimpanzé che nell'uomo. Senta Elisabetta, però diciamo bene che tipo di azioni sono questi giochi? Ruotare su se stesso, fare capriole, saltare probabilmente? Quello individuale, poi quello sociale è ancora più divertente, che è proprio la lotta. La lotta con gli altri. Quando si parla di gioco sociale negli animali, ma anche nei bambini molto piccoli, ci riferiamo quasi sempre al gioco di lotta, quello che gli anglosassoni chiamano rough and tumble, cioè capriole e ruzzoloni, poche parole. Consiste nel tentare di mordersi a vicenda, nel colpirsi, nel buttare in terra l'avversario, però senza mai esagerare, senza mai costringere l'avversario a stare troppo a terra, perché sennò altrimenti c'è una demotivazione, cioè l'animale si stufa e non ci sta più. Quindi la regola del gioco è che deve essere un 50-50, cioè un 50%. Tanto spingo io, tanto spingi tu, in modo tale da tenere l'azione in equilibrio. Elisabetta, scusami, voi avete osservato, credo, no, su scimpanzé e su cuccioli d'uomo questi comportamenti, su maschi e su femmine indistintamente? Sì, non c'è una grossa differenza tra maschi e femmine, almeno nella fase iniziale. Poi, ad esempio, già con l'adolescenza, anche nell'uomo ma anche negli scimpanzé e anche nei gorilla, si assiste alla prima differenziazione. Infatti molti ritengono che ad esempio ci potrebbe essere una forte influenza ormonale, cioè nel momento in cui l'animale o la persona si avvicina al periodo dell'adolescenza, la differenza e concentrazione dei relativi ormoni, tipicamente femminili e maschili, potrebbe portare a una diversificazione anche del gioco. Ecco che allora può comparire quello che viene chiamato il play mothering, cioè giocare a fare la mamma nelle femmine o continuare un gioco di forza nei maschi. E può venire fuori nelle femmine di scimpanzé questo giocare a fare la mamma? Sì, assolutamente, perché le piccole, ad esempio le femmine della generazione precedente, quindi le figlie di una mamma, diciamo, attempata, spesso si prendono cura dei fratellini, oppure addirittura ci sono delle femmine nullipare, cioè femmine che non hanno ancora avuto cuccioli, anche se sono adulte, che tentano di prendere i piccoli delle altre, di cullarli, di portarli in giro. Quindi c'è questo atteggiamento. Questo è interessantissimo. Delle femmine che non hanno ancora avuto e non hanno piccoli. Ma quindi c'è un'evoluzione anche del comportamento giocoso, forse? Un'evoluzione che appunto forse ci è arrivata dagli scimpanzé? Assolutamente sì, c'è un'evoluzione, diciamo, su larga scala, a lungo termine, che è quella darwiniana per eccellenza, insomma, quella di cui parlava Darwin, e poi c'è un'evoluzione è dovuta all'età, che si chiama ontogenesi, cioè una trasformazione dell'individuo nel corso del tempo che lo caratterizza per tutto il suo sviluppo, quindi dalla nascita fino all'età adulta. Non ci comportiamo sempre nello stesso modo, il nostro modo di comportarci cambia tantissimo da quando siamo bambini a quando poi diventiamo adolescenti, no? Lo sappiamo bene, chiunque abbia un figlio, un fratello, insomma, o che abbia contatto, sa perfettamente che accade questa cosa. Ecco, a proposito di età, mi pare però che dovrebbe esserci, forse sbaglio, una differenza, nel senso che gli umani giocano più a lungo con le stesse cose, anche quelle sociali come quelle individuali, di quanto facciano gli scimpanzé, no? Probabilmente. Beh, giocano più a lungo nel senso che... crescono più lentamente. Si riferisce al fatto che noi siamo anche da adulti? No, nel senso che noi cresciamo più lentamente, probabilmente uno scimpanzé a 2 anni e 3 anni forse ha già smesso di giocare, non è più un bambino piccolo. No, a 3 anni sono ancora dei bambini, e quelli che per noi consideriamo bambini, cioè infanti. I giovani vanno dai 4 fino ai 7-8 anni, poi comincia la fase adolescenziale. Vabbè, uguale. La caratteristica dello scimpanzé, di tutta l'antropomorfia in generale, è che hanno tempi di sviluppo molto lunghi, è per questo che hanno tanto tempo per giocare. Chissà se anche gli scimpanzé scoprono che non esiste Babbo Natale, come abbiamo detto all'inizio. Come abbiamo detto all'inizio. Vediamo. Chiuderei con questo. Non credo che loro si siano mai posti il problema. Elisabetta, una curiosità per finire. Questa ricerca mi pare che abbia un significato meraviglioso, ma voi cosa fate? Cioè, li osservate per ore e vi segnate quando giocano, quando non giocano? Come funziona la vostra vita etologica? Sì, vero, il punto uno è assolutamente vero, li seguiamo per ore, molte ore, segniamo tutto su taccuini, su apposite tabelle, che ma invidia. Soprattutto registriamo video e registriamo sul registratore, perché spesso il gioco è talmente veloce che sarebbe impossibile prendere nota di tutti i comportamenti, cioè mentre tu prendi nota del primo comportamento la ne ha già fatti altri 50. Quindi assolutamente non dobbiamo mai togliere gli occhi dall'animale, e soprattutto chiaramente ora la tecnologia delle videocamere ci aiuta tantissimo, soprattutto per fare le analisi frame by frame, cioè immagine per immagine, studiare anche i tempi, ad esempio le espressioni facciali, che sono molto importanti perché loro sorridono esattamente come sorridiamo noi mentre giocano, e quindi chiaramente la tecnologia, insomma, attualmente ci sta un pochino aiutando. Ecco, una ventina di anni fa era un pochino più faticoso, ora però insomma siamo aiutati in questo, ecco. Che bello, mi piace proprio concludere Mebius così questa sera. Loro avranno un Babbo Natale che è un gorillone bianco, e secondo me al posto delle renne ci sono degli umani, io credo che... O dei lemuri. Buon Natale, Elisabetta, grazie, l'anno prossimo. Anche a voi. Arrivederci. Buon Natale. Ma che cosa si dice, Chiara, in conclusione della trasmissione di Scienza di Natale? Ah, io direi solo una parola: auguri, auguri, auguri. Ma abbiamo appena parlato degli scimpanzé. E allora, auguri a tutti. Auguri a tutti.